come si dice? Good afternoon. Good afternoon. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Alvise Falzone in redazione, Roberta Fresani in regia, 800 24 00 24, e per fortuna che questa sera, domani, carissimo per Luigi Pardo, si torna a giocare. Eh sì, per così fortuna, mettiamo perché... fine al diluvio di parole, di processoni, di considerazioni. Ma lunedì serato c'è tichità, che non è che uno si annoia, no? E comunque sì, no, è bello, meglio il calcio giocato, quindi stasera si torna. E fra l'altro Milan-Lazio è sfiziosa. Sì, partita interessante, tra l'altro, tra le mille conferme che aspettiamo poi anche di capire cos'è il Milan. Domani porta De Luca allo stadio. Sì, porta Iella a Napoli. Lo diciamo sottovoce. Ma le povere De Luca, non è vero. Ha dei precedenti pessimi. Ma i napoletani sanno che Napoli. La scaramanzia non esiste, non ti preoccupare, non è vero, non ha precedenti pessimi. Certo, il momento migliore del Napoli è stato quando lui è partito 2 settimane per la California, questo ce lo ricordiamo 2 anni fa. Però non è vero, non porta sfiga, e domani sera magari ne avremo la conferma. Quindi insomma, però sarà... perché poi andiamo al salone, Sì, al Salone Nautico, giovedì saremo in diretta al Salone Nautico, quindi sono tutti invitati a raggiungere gli stand per noi. Cercate sul sito la campagna e vediamo anche l'indirizzo di dove raggiungerci, al Salone Nautico di Genova giovedì. Ma tra le cose che mandiamo via di questa domenica c'è Pallotta che dà del ridicolo al miglior arbitro italiano. Sì, anche se io sinceramente sul miglior arbitro italiano non so se sia meglio lui o Orsato, francamente, lo dico perché non lo so, francamente, quindi comunque sicuramente stiamo parlando di un arbitro di grandissima esperienza, e quindi non... L'altro giorno arbitrano male, insomma, io penso che no, che poi alla fine bisogna essere molto, molto laici nella vita. È un grande arbitro, l'altro giorno arbitrano male, anche se l'errore più grave secondo me è quello sul fuorigioco, che non è suo, no? Sì, che è in condivisione, quantomeno sono in 6 o 7 ad arbitrare, no, qualcuno, soprattutto c'è un qualcuno assistente. Poteva vederlo. Sì, in realtà poi dopo le 3 avremo Marino Bartoletti per le pagelle della settimana. Io anticipo un voto a Pallotta 4, ma non per aver dato del ridicolo a Rizzoli, ma perché Pallotta una mezz'oretta fa è intervenuto a Sky e su questa cosa qui ha detto: ma io ho pensato che alcune cose siano state ridicole, ma non ho parlato perché ho imparato che se dici qualcosa contro gli arbitri ti multano, e mi stupisco che un giornalista riporti queste frasi. Allora, o l'hai detto o non l'hai detto, e secondo confermi indirettamente che lo pensi, insomma, quindi... Sì, si sta in realtà ridiculous ha un'accezione un po' diversa in inglese, adesso non voglio fare proprio il metodo Schenker, però è un pochino diversa, non è l'accezione di ridicolo, però insomma la sostanza rimane, in questo si sta sicuramente italianizzando. C'è anche da dire però, insomma, francamente, che la partita dell'altro giorno, dove poi ci sono stati 2 errori arbitrali, perché poi ci sono state anche tante cose buone, no? E il fuorigioco. La sfiga o la fortuna dell'arbitro, del calciatore, che poi alla fine, soprattutto dell'attaccante o del portiere, che poi la partita viene decisa da pochi episodi. E onestamente Rizzoli, il rigore per me è più sì che no, è 80% sì, 20% no, è un rigore che... secondo me si doveva dare. Il gol in fuorigioco, ripeto, non è neanche tanto errore suo, sono degli errori, francamente non credo si possa discutere la carriera di Rizzoli, che rimane una carriera straordinaria. No, ma poi insomma anche l'inizio di stagione della Roma con gli arbitri non è certamente stato negativo, al di là della partita di Firenze. Vi faccio sentire un'altra frase che invece sta facendo discutere e io fatico a interpretare, cioè non riesco a capire se Allegri la dica un po' rosicando perché non gli è ancora passata, sì, o se invece ci sia dietro un ragionamento complesso su Inter-Juventus di domenica sera. Parlare di modulo credo che abbia poco senso. Io credo che fino a questo momento è stato fatto un lavoro importante, dove non una partita giocata male. Tra l'altro penso che Inter-Juventus di domenica sera è stata una delle partite più brutte a livello tecnico degli ultimi 30 anni, quindi dove noi abbiamo fatto un gol con una buona giocata di Alessandro e dove poi ci siamo fatti 2 gol per conto nostro. A me sembra un po' una rosicata. Io domenica sera mi sono divertito, non so tu, a vedere Inter-Juve. Sì, io è stata una partita intensa con dei colpi di scena, con degli strappi, ma anche con dei contenuti, cioè non hanno solo colpi. Infatti è strana questa frase di Allegri. Oggi era il riferimento alla prestazione della sua squadra, però sembrava in realtà lui dice: è stata una delle partite più brutte degli ultimi 30 anni. Io credo non si riferisse alla Juve, anzi non si riferiva solo alla Juve, ma si riferiva a tutta la partita. Io non so anche cosa ne pensano a casa, eh. 800 24 00 24, a grande richiesta un allenatore che sta facendo fatica a mettere insieme tutti i pezzi della sua squadra, però va applaudito per l'applicazione nell'imparare a parlare l'italiano. De Boer. Dopo sono più contento della esecuzione, perché per me è molto importante che questo progetto che where we work for è molto importante. È chiaro, che 3 punti aiutano il nostro processo per l'educazione era molto molto buona e per me è molto importante. C'è un misto di spagnolo e di inglese, però secondo me è anche grande coraggio, grande professionalità buttarsi così. Sì, ma io penso che lui stia crescendo da ogni punto di vista. E il tema, ormai mi annoia ripeterlo, è il tempo, che è sempre stato poco, poi è cominciato male. E però insomma, se prendi De Boer lo prendi perché gli vuoi dare del tempo, perché ti piace la scuola, quella scuola olandese, quell'idea di calcio, e quell'idea di calcio che è diversa da quella nostra, e c'è bisogno di tempo. Bravo sulla lingua, perché mi sembra che ci siano dei migliormente, però no, a parte le battute, mi sembra ammirevole. Ha fatto mezz'ora di conferenza tutta così, ammirevole. Per carità, con un ammirevole. Po' di inglese, un po' di posso spagnolo dirti, ammirevole. Ma mi piace moltissimo questo tipo di approccio, perché sarebbe molto più, diciamo, prudente la parte sua, no? Carry on in English and go on, aspettare il momento che sei in grado di parlare in maniera fluente. Cioè, invece aspetta decenni prima di cominciare a parlare. Cioè, mentre lui fa questa cosa qui, rischia la gaffe, rischia che, no, che deve dire razzo e riesce a dire. Certo. Per cui io idealmente insomma, gli batto le mani. Ecco. Guarda, allora su Allegri, gli amici si stanno dividendo da casa. Allegri ha ragione, parlava di aspetto tecnico, guardate le statistiche su palle perse e tante altre cose. Oppure Claudio che scrive: la rosicata di Allegri come soddisfazione seconda solo come goduria alla vittoria per 2-1. Oppure c'è anche un amico che scrive: Allegri si diverte a prendervi per il culo e a farvi scervellare. Secondo me era un po' nervoso ancora. Però penso che questa sia la cosa. Sì, tu dici. Sì, perché se no, faccio fatica a capire il senso di questa affermazione, di questa battuta sulla partita più brutta degli ultimi 30 anni. E penso che sia questo un po' il tema. Chi dice Allegri era vedere un'altra partita. Ma guarda, c'è sempre nei confronti di Allegri. Io sono allegriano e quindi allegriano, ma che non toglie che alcune cose non l'ho capite. Per esempio Pjanic fuori e Higuain fuori rispettivamente contro Siviglia e Inter. Premesso che poi non ha perso per colpa di Higuain. Però io credo una cosa, che francamente che lui sia bravo, che lui sia bravissimo, su questo non ci sono dubbi, e che ci sia sempre un po' di pregiudizio nei suoi confronti. Cioè lui gode di buona stampa e di buona opinione pubblica, ma non così tanto come meriterebbe, perché ci sono allenatori ai quali viene perdonato qualcosa in più. Fra qualche minuto convochiamo l'avvocato difensore per antonomasia di Max Allegri, così cerchiamo di aiutare il povero Allegri a uscire dalle sabbie mobili di questo processone. Ha detto però che non cambia modulo. Poi vi diciamo tutto. 800 24 00 24. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Qui è altro che Ciupiti di Popoviel. Convocati. Fare un dramma o in 24 ore buttare all'aria un lavoro che è delle certezze che abbiamo da anni, credo che abbia poco senso e soprattutto dimostri delle insicurezze. Una cosa è certa, che sicuramente la squadra va nel corso dell'anno cambiare sistema di gioco per cercare di sfruttare al meglio quelle che sono le caratteristiche dei giocatori che abbiamo davanti, che dovranno crescere. Arriva un diluvio di messaggi sulla frase di prima di Allegri, secondo il quale Inter-Juventus è stata la partita più brutta degli ultimi 30 anni, e in tanti gli danno il rosicone. Non credo glielo darà anche Giovanni Galeone. Mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Ma sei d'accordo? Chi meglio di lui per farci proprio l'interpretazione autentica di questa frase, mister? Cioè, Inter-Juventus la partita più brutta degli ultimi 30 anni. Ma non esiste. Prima di tutto perché l'Inter ha giocato una buonissima partita. E in pochi credono nell'Inter, perché dopo la prestazione che aveva fatto contro gli uomini del deserto lì, insomma, nessuno si aspettava una reazione del genere, no? Ma l'Inter è, di per sé è forte, è una squadra fortissima, è una squadra probabilmente molto non vicina, vicinissima alla Juve, però poco inferiore alla Juve, e alla pari del Napoli e meglio della Roma, secondo me. Per cui, cioè, ma secondo te l'ha un po' sottovalutata anche Allegri? No, per niente. Max non è uno che sottovaluta le partite, anzi, è un martello. Lui è un martello, piuttosto probabilmente i giocatori dopo essere andati in vantaggio 1-0 devono aver avuto un calo di tensione, a parte poi che Max ha fatto delle scelte che avrà avuto le sue ragioni per farle, non a tutti sono piaciute e credo che non sia piaciuto neanche a lui, però probabilmente è stata una prova dove lui da questa prova capirà che magari determinate scelte andranno modificate. Infatti ha detto la squadra cambierà a seconda delle caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione, e ha a disposizione dei giocatori che probabilmente rendono in altre parti del campo che non in quelle in cui sono state schierate contro l'Inter, o ha provato a schierarli contro l'Inter, insomma. Una su tutti, quella di Pjanic, no? Pjanic non è un regista, non sarà mai probabilmente un regista vero e proprio, è uno che sicuramente da più da metà campo in su, perché può creare la palla gol, può infilarsi, può tirare, cioè un giocatore che rende al massimo da metà campo in su. Davanti alla difesa lui, insomma, va un po' a prendere la palla dai piedini degli altri, e prendere la palla dai piedini di Bonucci, insomma, è un assurdo, perché Bonucci ha già i piedi per impostare lui l'azione, ecco. Quindi probabilmente modificherà qualcosa, Max. Però bisogna dire anche che lui ha gli uomini ogni giorno, e se ha fatto determinate valutazioni, determinate scelte, ci saranno state le ragioni, perché Higuaín non lo si lascia fuori così a cuor leggero. Io non so, l'avranno monitorata durante la settimana, ci saranno stati dei pericoli per cui non l'ha voluto rischiare contro l'Inter, perché magari poteva andare incontro a qualche incidente o qualche danno muscolare, questo non lo so io, ma penso che sia per una questione del genere, anche perché Higuaín ha cambiato metodo di allenamenti e si era presentato il ritiro, diciamo, non proprio in lavoro, ma ecco, e quindi non probabilmente benissimo. Hanno fatto un lavoro che ne risentirà adesso, quindi dopo aver giocato 90 minuti ha creduto di tenerlo a riposo dando spazio a Mandzukic, anche per non perdere Mandzukic, naturalmente. Certo. Moltissime critiche, soprattutto io non mi aspettavo critiche così terribili dal giornale di famiglia, perché quello proprio è stato terribile, questa l'ha persa Allegri. Quello è un segno. Ti ricordi anche l'anno scorso? Io non ho mai letto sul giornale di famiglia questa l'ha persa Conte in 3 anni. Pur perdendo partite col Galatasaray e pareggiando partite. Hai ragione. Ecco, tanto per dire. Ma questo, scusa, fammi capire una cosa. Questo in qualche modo ci conferma della sensazione che Allegri, che pure ha fatto benissimo e che comunque è amato dai tifosi della Juve, ci mancherebbe altro. Però, insomma, abbia avuto la strada un pochino più in salita rispetto ad altri allenatori. Per carità, ci sta, Lippi ha avuto problemi all'Inter, Ancelotti ha avuto problemi alla Juve. Cioè, esiste un passato, esiste un... È anche il bello del calcio, no, da un certo punto di vista. Sì, però perché, è un po' più difficile. Non sono solo i tifosi. Molto, molto spesso la critica è lo più importante. Bisogna avere qualcuno che cui certi meccanismi di critica che non sempre si riescono a capire. Adesso per farvi un esempio, noi nell'ultimo campionato europeo siamo stati capaci di esaltare una squadra che è arrivata settima in Europa. Ora, se è un grande risultato arrivare settima in Europa dopo il Galles, tu stai dicendo quasi, che Conte è più amico dei giornalisti di Allegri. Conte è più amico dei giornalisti di Allegri, li allena meglio. Allegri sicuramente non è amico dei giornalisti, sicuro, questo al 100% ve lo do, che non è amico dei giornalisti. Lui sì, fa la sua vita tranquilla, ma non si ruffiana, non telefona ai giornalisti, non c'è dubbio, giustifica, non c'è dubbio. Su questo lui è un livornese duro, tosto, ha la testa, ha le sue idee, le difende. Non sono neanche d'accordo quando dicono contestone, perché uno che ragiona, è come se ragiona, e si accorge anche lui quando evidentemente fa delle scelte che forse dopo, dice, va col senno di poi, avrei potuto anche pensare diversamente. Quindi non è che uno che si impunta lì e resta sulla sua idea, anche se ritiene, ne parla, è uno tosto, però, ma non fa le cose così campate in aria. Quindi non, per quello io dico, le scelte di Higuain, le scelte di Pjanic, eccetera, sono state scelte ponderate, perché c'è che dire che ha giocato sempre. Perché c'è De Minà che... Io ho già detto ragazzo, che Chedira domani riposa, perché dopo 7 partite non le faceva da 15 anni di fila, dal 94-95. È stato infortunato anche l'ultimo giocato in Germania, per lungo tempo non ha giocato. Cioè, bisogna valutare anche queste cose. Un allenatore che li ha ogni giorno sotto di sé, no? E poi adesso, parliamoci chiaro, non sono gli allenatori come quando allenavo io. E avevo un secondo e un preparatore atletico, dopo anni di aver fatto allenatore sono riuscito ad avere un mio collaboratore e un preparatore atletico. Adesso hanno 10-12 collaboratori, uno che studia singolarmente quanto corre, quanta corsa veloce, quanta corsa in acidosi, quanta corsa... Però la domanda mister, ma tu Higuain, ha premesso che poi non è che la Juve abbia perso per Higuain, anzi, insomma, la rimonta c'è stata con Higuain in campo. Ma tutti lo avrebbero fatto giocare. Tutti tranne Allegri. Tutti tranne Max, ma se Max non l'ha fatto giocare, avrà avuto i suoi motivi. Perché ci sarà una ragione, ma c'è sicuramente una ragione. E tu che sei intimo, questa ragione l'hai capita? Poi, l'hai capita? Io forse anche fisica, la so. La sai? Forse anche la sai. Dacci un indizio, non dircelo, dacci un indizio. Ma è più divertente, faccela spizzare un po'. Ma è chiaro che ce l'ha detto prima, ce l'ha detto tutta prima. La vita, che discorsi, sì. Non stava benissimo, c'era qualche rischio, insomma. Magari tu non devi correre dei rischi di perdere un giocatore per un mese, io non gioco una partita, gioco contro l'Inter. È sempre una partita molto sentita, eccetera, però posso perdere un giocatore quando vado ad affrontare la seconda partita di Champions. Tra l'altro improvvisamente importante, perché il pareggio importante perché hai pareggiato con Siviglia, poi tutti a dargli addosso con Siviglia, gli ha vinto dalle ultime tre Coppa UEFA, porca miseria, quale squadra italiana ha vinto la Coppa UEFA di fila? Non so cosa dire. No, nessuno. No, allora, ma non italiana, non c'è nessuna. Ha giocato contro Siviglia. Guarda, lì veramente, lì anch'io sono impazzito. Lì si è veramente esagerato. Io ho fatto una partita non ottima, perché la partita ottima è migliore di quella. Ha fatto una discreta partita, perfetta dal punto di vista difensivo, perché il Siviglia veramente non ha mai tirato. Non ha mai tirato in porta. E con 4-5 occasioni, 4-5 occasioni, certo, non sono state 20, ma sono state 4-5, il gol lo potevi trovare. Quando è entrato Pjanic un pochino di più, Higuain ha preso una traversa, insomma, avesse fatto il gol di testa Higuain, magari passava tutto sotto silenzio, no? Ecco, questo, il valutare le partite a seconda solo ed esclusivamente per il risultato non si può. Senti, ma lui ha in testa, ha in testa lista anche di Buffon. Ha in testa la difesa 4 per l'Europa. Hanno attaccato tutti, noi invece, io ero contentissimo di quella partita, perché dietro abbiamo giocato in maniera perfetta. Con l'Inter non è stato così, perché Icardi li ha massacrati tutti. Senti, contro tutti. In Europa tornerà la difesa 4 secondo te? Sì, probabilmente. Secondo me sì. Anche secondo me. Abbiamo un paio di indizi di quelli importanti. Grazie mister. Grazie a voi. Grazie a Giovanni Galeone. Vi dico un'altra frase che secondo me fa discutere, che ha detto oggi Allegri: Sai cosa ha detto anche a tutti i critici? Ha detto: noi meritavamo in questo inizio di campionato 8 punti e ne abbiamo fatti 9. Perché noi meritavamo un pareggio con la Lazio, un pareggio con l'Inter, è uscita una vittoria e una sconfitta. Quindi la verità è che meritavamo 8 punti e tra l'altro io pensavo di farne 5-6, non di più. Quindi siamo pure sopra media. C'è la borsa, torniamo subito a 800-24-00-24. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Tutti convocati. La mette dentro ancora Higuaín! Così è illegale veramente! Così è veramente illegale! Parte Banega, sotto parte Icardi, rete! Il pari dell'Inter! Immediato, Icardi, sempre lui! Di testa Allan, Milik, limite dell'area, attenzione a Milik, vuole liberare il sinistro, lo prova! Arkadiusz Milik! Seconda doppietta consecutiva! Dopo quella la Dinamo Kiev mette il sigillo sul Napoli-Bologna, è 3-1. Si muove Bacca, Suso, l'assist è buono per Bacca, controlla Bacca, entra dalla panchina e colpisce Carlos Bacca, 1-0, terribile. Grande palla in verticale di Paredes, se ne angolare, mette in mezzo, il secondo palo, secco! Positivo, questo è un gol pesante a livello psicologico, serve tantissimo a Dzeko. Adesso diamo le pagelle ai grandi nove del nostro campionato. 800-24-00-24, prima però Lucio. Ciao. Siamo da Napoli, ovviamente questo Napoli per fortuna già ci ha fatto un po' sbollire tutta un'estate di sofferenza per la perdita di Higuaín. Poi dopo, se vi va un attimo di goliardia, una frase bellissima a proposito di quella settimana in cui lo perdemmo. Un amico ha detto: è come se mi avesse tradito mia moglie e mio suocero mi sfotte. Sì, ma tu ne parli come se avessi perso un parente. La settimana in cui lo perdemmo. Noi a Napoli le cose le viviamo così. Comunque guardiamo avanti. Uno che ti fa 36 gol in un campionato vale più di molti parenti. Secondo me già quest'estate qualche indizio ci poteva essere che Napoli poteva andare avanti. Solo il 2 aprile per fischiarlo e assordarlo. Detto ciò, allora non l'hai passata molto. No, diciamo la verità. Perché ce l'abbiamo la testa. Stai qui in fondo, col 2 aprile primo, segnato sul calendario. Sì, segnato sì. A carattere pubblicitario. Detto ciò, Allegri, io anche la settimana scorsa l'ho sentito un po' nervosetto, forse perché c'era la partita col Siviglia che non era andata come voleva, quando ha voluto sottolineare che questa partita era uno snodo per lo scudetto. Sarà stato anche vero, però l'ho visto un po' di troppo, insomma, vorrei sottolineare e caricare comunque questa partita oltremodo. All'inizio, non ci dimentichiamo, l'anno scorso la Juventus ha cominciato ancora peggio. Detto ciò, De Laurentiis ci sta facendo divertire, molta improvvisazione. Però l'ultima cosa, poi chiudo, siete stati gentili a sentirmi, anche la Juve con tutto il suo mercatone, secondo me un po' di approssimazione, arrivare all'ultima ora con Witsel, insomma c'è stata. Quindi a non prendersi quel centrocampista lì che serviva. Non c'è dubbio. Bruno da Forlì, Bruno. Sì. Eccoci. Sì. E volevo fare una... Innanzitutto grazie per l'ospitalità. Volevo fare una riflessione, un'osservazione. Riflessione su la storia di Allegri e Higuaín, che Allegri chiama Higuaín nel secondo tempo, sembra quasi come a tappare qualche buco. Forse è una, non so, forse è una procedura questa qui che è stata concordata fra allenatore e giocatore, allora dovrebbe essere una cosa normale, non dovrebbe portare strascichi. Ma se questo non fosse, secondo me, considerando che Higuaín deve aver subito tanto stress dalla fine di quest'estate, quando ha cambiato casacca, ha cambiato maglia, perché gli sono venute addosso delle critiche da tutte le parti, quindi una persona normalmente sensibile non può non avere avuto. Se questo, appunto, questa concordanza con Allegri non ci fosse, io penso che questo giocatore rischierebbe parecchio, come diciamo livello di equilibrio psicologico, allora, per quel che riguarda il giocatore. A me non sembrava stressatissimo, Higuain, però. Ma no, no. Ma nemmeno no. Quando si è presentato in ritiro. Non c'è niente di. C'è niente di tui fra di noi, no, che questa è una canzone. No, non c'è niente di drammatico, non c'è niente di definitivo, ci mancherebbe altro, la quarta giornata. È stato, ce l'ha spiegato Galeone, dai, Galeone ci ha dato la notizia, ci ha detto che evidentemente il giocatore non stava bene ed era a rischio dal punto di vista fisico. Poi, possiamo credergli o no, però sicuramente è stato un azzardo e è stato un azzardo per lo stesso Allegri, nel senso che non è che Allegri sia uno che si diverte a prendersi dei rischi inutili, no? Cioè, se Allegri non mette Pjanic contro il Siviglia e non mette Higuain contro l'Inter, insomma, non è che lo fa perché è masochista, sa benissimo che qualora il risultato non dovesse essere quello giusto, queste sue scelte gli verrebbero rinfacciate, ed è esattamente quello che è successo. Quindi, francamente, mi sembra che l'unica cosa che possiamo fare è credere a quello che ci ha detto Galeone, cioè che il giocatore era a rischio infortunio e che, siccome ovviamente la stagione è molto lunga, si è preferito prendere, fare una rinuncia adesso piuttosto che rischiare di avere magari una ricaduta o un problema di natura fisica. Sì, anche perché dietro non avevi un ragazzino della primavera. Razionalmente la partita da turnover è quella di domani, no? Cioè, a bocce ferme, la partita dove far giocare Mangio, che c'è tenere Higuain in panchina, teoricamente c'era, ed è quella di domani sera contro il Cagliari, con tutto rispetto per il Cagliari, che fra l'altro sta anche benino. Mandateci il vostro podio dei numeri 9 del campionato. Saluto Enrico Chiesa. Ciao Enrico. Come va? A proposito dei grandi attaccanti. Da genitore, scusa, adesso poi parliamo di attaccanti. Da genitore, com'è la vita? Buona, bella, bella, divertente. Tranquilla, sì. Che hai pensato quando l'hai visto, per esempio, a Torino? Sono contento per lui, sicuramente, perché è una grande soddisfazione. Poi questi ragazzi qua, quando si esordisce, sempre è un percorso che lo fa da tantissimi anni, perciò penso che è il raggiungimento di un grande obiettivo. Tu saprai che io ho vinto un paio di scudetti con la Pardense a Fantacalcio, grazie a Ricoresa, no? A metà degli anni 90. Anni fa, a metà anni 90, gli anni della Samp. Era un bel calcio, dai, però. Era un gran calcio. Poi non eravamo messi male, perché eravamo Mancini, Chiesa lì davanti, Casiraghi. Un attacco sicuramente. Jugovic, Winter a centrocampo, ho avuto anche Vialli, veramente una squadra pazzesca la Pardense. È una squadra da scudetto. Infatti ne abbiamo vinti almeno un paio. No, ride Capuano, ma è la verità. I miei altri 11 amici lo sanno molto bene, quegli anni non toccavano palla. Poi paradossalmente c'è stato un periodo in cui Chiesa veniva considerato centrocampista al fantacalcio, ed no, era la fortuna Da me era attaccante, noi ci abbiamo avuto le regole nostre, una cosa. Io Maldini ho ritirato la maglia, credo anche di Chiesa ho ritirato la maglia. Poi ho venduto Totti per caccia e 120 miliardi, è una cosa che... No, ma ancora mi prendono in giro a distanza di anni. Ma perché caccia la segnale? Vabbè, comunque, dai, adesso questi sono dettagli. Enrico, chi è meglio, Milico, Higuain o Icardi? Beh, dai, mettili in fila. Io dico che Icardi avrà una grandissima carriera. Ha fatto 61 gol a 23 anni. Cioè, è arrivato a 61 gol già. Per me un centravanti ce ne sono pochi. Cioè... E gli altri, Higuain e tutti, sono già giocatori affermati. Questo è un ragazzo che può solo che migliorare, dipende solo esclusivamente da lui, perché c'ha tutto, è uno dei pochi giocatori che conosce benissimo l'area di rigore, come intendo io gli attaccanti veri, che in area di rigore il pallone non è una sorpresa, anzi è una certezza per lui, perciò credo che è un giocatore che per me da qui in avanti può fare solo che gol, e per il bene soprattutto dell'Inter. Ti ha colpito invece Milik? Milik è un giocatore che forse è uno dei pochi stranieri che si è ambientato subito nel calcio italiano in modo molto veloce, ma io credo che questo sia stata la bravura della società a puntare su di lui, ma soprattutto dell'allenatore Sarri, perché per il gioco che ha Sarri, per le varianti che ha nella fase offensiva, tutti gli attaccanti possono fare gol. E prepara benissimo la fase offensiva e ha molte alternative, a giocatori molto adatti a questi 4-3-3, perciò questo giocatore si adatta benissimo Poi un giocatore che magari fa gol banali, perché li fa magari semplici, ma bisogna essere lì. Questo è un altro centravanti che conosce bene l'area di rigore. E come ho detto prima, è uno dei pochi stranieri, che pochi, anche altri, però magari ci ha voluto un po' di tempo per ambientarsi, che è riuscito subito a entrare negli schemi di Sarri. Però ritengo che è più semplice per un attaccante, e soprattutto giocare una squadra come il Napoli, soprattutto nella fase offensiva che fa Sarri. Ma tu sei di quelli che pensano che sia Higuain ad aver beneficiato degli schemi di Sarri più che il Napoli di Higuain? Questo sarà il tempo che lo dirà. Io credo che è difficile a dirlo adesso, perché sai, quando già Higuain gioca male, mi segna, tutti dicono che ha fatto bene il Napoli. In contrario, se Higuain vincerà con la Juve, diranno il contrario. Però io credo che Higuain, quando c'è un'offerta, c'è una clausola, perciò non ci si può fare niente. E la Juve ha puntato sul giocatore che attualmente è il più forte centravanti al mondo, che dà sicuramente la certezza di quei gol necessari per poter competere a grandi livelli. E Napoli non ci ha potuto fare niente, però penso che poi il Napoli non deve, penso, alla fine dimenticare più velocemente Higuain. E sì, quello, sì, credo, ma... quello che sta facendo. E Sarri lo, penso che nell'intervista lo dice. Dice anche che non si può dimenticare un giocatore che ha fatto 36 gol, però la vita va avanti e Napoli deve costruire un qualcosa di nuovo. Anche se Sarri continua a dire la Juve farà il campionato del Bayern, del Paris Saint Germain, ogni tanto forse mette un po' le mani avanti. Vi chiedo un minuto di pazienza. Mette un po' di pressione. Mette pressione alla Juve, dici. Può essere. Anche questa è una chiave di lettura. Vi chiedo un minuto di pazienza. Abbiamo il traffico. 800-24-00-24. Torniamo subito. Tutti convocati. I love this game. Convocati. Ha fatto 3 o 2 allenamento, e ieri ha entrato con il gruppo la prima volta e pare che sta buono, e oggi vamos ver che come va, come sta él, però può essere sta convocato. Questo debut su Gabigol, a proposito di attaccanti grandi o potenzialmente grandi, Gabigol che oggi potrebbe essere convocato, e poi tra Empoli e Bologna, credo per qualche minuto lo vedremo in campo. Siamo con Enrico Chiesa. Enrico, ci dai anche un podio di attaccanti italiani? Italia, perché è sparito Belotti, ad esempio, il Toro non segna più. Beh, questo mi dispiace, perché ha avuto un infortunio nel momento di massima condizione fisica, un giocatore che è migliorato tantissimo nell'ultimo anno, ha fatto un percorso incredibile, ha meritato la nazionale, peccato perché serviva l'anno scorso Torino, manca la nazionale, giocatore che è molto utile non solo in fase realizzativa, ma soprattutto per squadra, giocatore si statistica molto, ma altri attaccanti ce ne sono italiani, cioè io credo, basta vedere, a me piace anche Caprari del Pescara, giocatore giovane, giocatore che sta facendo molto bene, soprattutto nel gioco di Oddo, nella fase offensiva si può esprimere ai massimi livelli, poi nei citati Berardi, che anche lui è infortunato, adesso Politano è uscito fuori, Pavoletti, ce ne sono giocatori giovani, interessanti, che possono poi far bene anche in futuro in nazionale. L'importante è che possono avere la possibilità di giocare con continuità. Questo penso che sia la cosa più importante per la fine. Grazie Enrico. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Grazie Enrico Chiesa. 800-24-00-24. Francesco. Buonasera. Eccoci. Grazie. Come va? Grazie. Bene. Grazie della convocazione. Dove sei? Dove sei? Geolocalizzati. Sono ad Olbia. Ah, Sardegna. Eia. Sì. Come a Olbia? Temperatura? Bene. Ancora c'è caldo. Qua c'è caldo. Si fa il bagno? Sì. Sì, ancora sì. Quando è che hai fatto l'ultimo bagno? L'ho fatto venerdì. Beh, insomma, un pizzico di invidia. Ma no, che un pizzico, un chilo e mezzo di invidia. complimenti del resto. Dai, Francesco, dici. Io ho chiamato da tifoso juventino, non capisco questa difesa d'ufficio di Allegri ogni volta quando può anche lui sbagliare una partita. Certo. Però i dubbi legittimi di molti tifosi juventini sono questi. Intanto non si vede il gioco di Allegri. Lui è stato bravissimo a gestire il patrimonio che ha ereditato, ed è stato veramente bravissimo e intelligente. Però io ancora non vedo il gioco di Allegri, la sua impronta tattica sulla Juve. Però, Francesco, perdonami, cioè della Juve di Conte non è rimasto quasi nulla, se non la difesa. È rimasto il DNA. Sì, però dire che questa Juve, ma anche quella che l'anno scorso ha vinto lo scudetto di rimonta, questa Juve di Allegri sia la stessa di Conte, io credo sia un errore storico. No, forse non è quella di Conte, ma io non capisco quale sia il gioco di Allegri. Cioè, non riesco a vedere la sua impronta tattica. Juve-Real Madrid, semifinale di Champions, te la ricordi? Sì, me lo ricordo. Ma lui è molto bravo a controllare le partite. Ma non a imporre il suo gioco. A parte che non è male, controllare le partite non è male. Poi vorrei capire anche la differenza. Però adesso in Europa dobbiamo anche imporre il nostro gioco. Guarda, io invece arrivo a dirti che secondo me Allegri rispetto a Conte impone di più il suo gioco. Conte è bravissimo, secondo me l'ha dimostrato anche all'Europa. Però Conte secondo me è un allenatore, cioè secondo me i momenti alti del gioco di Allegri sono ancora superiori ai momenti alti del gioco di Conte. Poi Conte, io no, non sono d'accordo. Vabbè, secondo me Conte ha fatto un lavoro stratosferico alla Juve. Sì, ma per carità, l'aveva ereditata dai settimi posti. Io credo bene a mamma o papà, stiamo parlando di due geni, due grandi allenatori. Scusate se vi interrompo, ma per esempio io rimango, vedo Dybala che gioca a 50 metri dalla porta. Oggi Allegri ha detto che non è vero, che gioca esattamente nella stessa posizione dell'anno scorso. Corre più di tutti. Poi vedo Pjanic, che è una mezzala fortissima, l'abbiamo presa per giocare davanti alla difesa. Poi non parliamo dei calci d'angolo, cioè ogni calcio d'angolo è un pericolo per noi, mentre noi non facciamo un gol sui calci d'angolo, nonostante abbiamo dei saltatori bravissimi, non facciamo mai un gol. Cioè, quindi se qualcuno esprime dei dubbi su Allegri, non penso che sia lesa maestà. I dubbi si possono esprimere, è questo processo continuo tutte le volte che c'è qualcosa che non va bene, che effettivamente un po' colpisce. Ragazzi, va benissimo, alla fine poi stiamo parlando, siamo tutti d'accordo e usiamo parole diverse per dirlo, no? Nel senso che io penso che Allegri sia chiaramente, come tutti, può andare sotto processo se sbaglia, e secondo me sicuramente non se la sta giocando benissimo in questo momento. Ha fatto delle scelte, anche se poi in realtà, se è vero quello che dice Galeone, cioè che Higuain era a rischio infortunio, sì, non si tratta nemmeno di una scelta. Esatto. Detto questo, oggi è giusto che sia sotto processo. Io avevo fatto mezz'ora di puntata su questa roba qui. Ci mancherebbe altro, nel momento nel quale Higuain, mister 90 milioni, non viene schierato in una partita così importante e la perdi, ti becchi il processo. Io trovo che ci sia in generale, in assoluto, nell'ambiente Juve e in generale nell'opinione pubblica, un po' di sottovalutazione di Allegri. Cioè, secondo me Allegri, rispetto ad altri allenatori, c'ha qualche immunità in meno. Detto questo, per carità, sbaglia, probabilmente ha sbagliato anche l'altro giorno. La Juve l'altro giorno c'era malissimo, e quindi l'allenatore, che sappiamo è la sintesi tecnica della squadra, si becca gli elogi quando le cose vanno bene e si becca i rimproveri. Quindi è giusto che si becca le critiche quando le cose vanno male. Dobbiamo fermarci, che c'è il GR 800 24 00 24. Poi torniamo, ripartiamo da Marco e Raffaele, restiamo qui fino alle 15:30. Tutti convocati. Poi si fa fatica, ragazzi. Dal lunedì 26 settembre, dalle 9 alle 10:30, torna Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia, i dentro la notizia di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, e poi i venerdì speciali con Alessandra Fiori, Alessandra Cravetto e la musica di Franco Schipani. Mix 24 di Giovanni Minoli. Dal lunedì al venerdì alle 9 su Radio 24. Tutti convocati. La rosa non è corta, naturalmente bisognerebbe avere a disposizione i calciatori, però la rosa non è corta. Dici, è chiaro che però è implicito poi lì nella domanda che ci sia anche qualche infortunato. Non è corta, stiamo bene così. Non è corta, è di qualità. questo Spalletti alla vigilia di Roma Crotone. Spalletti che ha anche annunciato che la punizione per De Rossi è finita. Ha detto: le tre partite sono finite, mi aspettavo quello che ha fatto, si è allenato, ha reagito bene, se domani gioca gli do la fascia da capitano. Questo oggi Luciano Spalletti. 800240024 Marco. Pronto, buongiorno. Eccoci. Grazie per la convocazione. Grazie. Senta, a te. Io volevo muovere la mia critica verso, più che Allegri, anche la società, che secondo me ha fatto delle scelte sbagliate. La prima è stata quella di non valorizzare Marrone nel ruolo che adesso ricopre Lemina. Si è vista notevolmente la differenza. Marrone è capace di impostare l'azione, mentre Lemina ha dei limiti di velocità. E poi, indipendentemente da questo, la Juventus deve trovare ancora un bandolo della matassa, il mister, che secondo me è anche troppo spocchioso, perché è troppo permaloso, perché se uno gli rivolge una critica non è per forza una critica distruttoria, ma è una critica per costruire. Per il resto tutto bene, Marco. Sì, sì. A parte questo, diciamo. Sì, a parte questo, sì, perché sai che gli interisti qui a lunedì mi hanno fatto un sedere qui a lavorare. Comunque, complimenti all'Inter, perché devo dare atto che è la prima partita dopo 5 anni che vedo l'Inter veramente giocare intensamente e con un senso di gioco, capaci e primi su rimpalli, bravi sulle fasce, capaci a capitalizzare quelle poche occasioni o anche tante che hanno avuto, perché bisogna vedere la seconda della visione di gioco, però stati bravi. Però indipendentemente da questo si è visto la Juventus che anche col Siviglia non aveva proprio un bandolo di gioco con le idee chiare, si è visto molte volte partire Dybala 1 contro 5 come si fa ai tempi del calcetto tra amici o tempo dei bambini, ma la Juventus deve essere una squadra. Sì, io credo che in 2 anni Allegri qualcosina abbia dimostrato sul fatto di essere capace di mettere in campo una squadra e non una cozzaglia di campioni, però noi siamo aperti a qualunque contributo. Ma va benissimo anche così. Francesco. Sì, pronto. Sì. Buonasera, grazie per la convocazione. In breve, io premesso che sono juventino e sono juventino punto e basta, molto juventino, poco tifoso. In ogni caso, mettere in discussione Allegri mi sembra veramente una sciocchezza. Per quello che ha dimostrato, per quello che sta dimostrando, per quello che ha fatto per la Juve in questi 2 anni. Ricordiamoci l'anno scorso quando l'abbiamo dato tutti per spacciato, io per primo, per l'amore del cielo. Poi insomma, credo che abbia ragione Allegri. La partita contro l'Inter, i gol ce li siamo fatti da soli, più che escluso il gol di Cardi che è stato meraviglioso e ha fatto il suo lavoro. Sì. Ma i gol di fatti... Io ho visto alcune foto ieri, c'è Icardi che salta 40 centimetri più di Mandzukic e Chiellini, che non sono proprio due. Non sono pochi. Tutto rispetto per Icardi che ci ha messo l'azzurro. Escluso il gol di Cardi che ha fatto il suo lavoro, è stato bravissimo, ha fatto il centravanti, ma l'altro gol lasciamo perdere. Però se posso dire una cosa, se noi seguiamo questo ragionamento, allora è la stessa cosa che potrebbe dire De Boer, cioè il gol di Lichtsteiner se l'è fatto D'Ambrosio facendo scappare Alexandro. Ma no, noi dobbiamo guardare, la prestazione. A me piace molto l'atteggiamento di questo tifoso, perché secondo me è assolutamente giusto, l'approccio è assolutamente giusto, assolutamente sano e corretto. Io credo che dobbiamo valutare la prestazione dei 90 minuti, e nei 90 minuti secondo me l'Inter ha dato dei segnali di grande ritorno e la Juve dà dei segnali di fragilità. Poi già da domani magari sarà completamente diverso, però è la prestazione quella che va calcolata e va considerata al di là degli episodi. Poi magari domani cambia tutto. Marino Bartoletti, ciao Marino. Ciao Giovanni, ciao Pier. Come va? Va bene, non siamo più a Camogli, ma cerchiamo di avere. Ho capito, figlio mio, che dobbiamo fare? Domani... Abbiamo sbagliato il giorno. Però c'era domani Benigni andiamo. Il giorno dopo, eh. Lo so, sapevo. Domenica c'era Benigni, in realtà. Ci picchia. Domenica c'era Benigni, sabato ho assistito con il maestro Freccero e anche il maestro Aldo Grasso, straordinario critico televisivo, a Manchester City, Manchester United. Io sono così felice perché vedo degli intellettuali di altissimo livello che si sono nella loro vita sempre espressi su materie molto alte, che insomma vivono il calcio con una passione, con un piacere, e questo mi fa molto piacere. Penso che da Nick Corby in poi, quindi parliamo di metà degli anni 90, questa sia una tendenza europea, cioè gli intellettuali tra virgolette hanno sdoganato il calcio, che è cultura, e questo mi fa molto piacere. Posso rivendicare al mio Guerin Sportivo, assolutamente, non è vero, è vero, è vero, aver sdoganato il calcio, il grande calcio mondiale europeo in Italia. Ci fu anche, mi viene in mente, Veltroni, che improvvisamente sull'Unità cominciò ad allegare, no? Una volta a settimana c'era un album Panini. Insomma, mi sembra che la strada è quella roba lì, di noi intellettuali. Non ripetiamo l'esperimento però di venerdì sulle figurine, che siamo stati letteralmente travolti. Non provocarmi, esatto. Senza risentirlo, ci dai il tuo voto su Allegri? Allegri per me merita un 6,5, perché sono allineatissimo con quello che ha detto un attimo fa Pierluigi, e la valutazione complessiva della partita dell'altra sera che va valutata. Io credo che sia più merito di quello che ha fatto l'Inter che non demerito di quello che ha fatto la Juventus, se vogliamo usare, come dire, la bilancia dei meriti e dei demeriti. È un piccolissimo campanello d'allarme che riguarda soprattutto la difesa, che sta invecchiando. Sta leggermente invecchiando, e su difesa la Juventus ha costruito le sue cose più importanti. Non mi scandalizzo per la vicenda Higuaín, nel senso che voglio pensare, anzi ho la certezza, che Allegri non sia un pazzo, che ha il polso della situazione molto meglio di quanto non l'abbiamo noi, che se ha pensato di fare quello che ha fatto, non lo ha fatto per masochismo, ma perché pensava fosse giusto. Ovvio, ragazzi, ecco, questo è chiaro, che c'è ancora una sola favorita per lo scudetto, che è la Juventus. Ridetto questo, è chiaro che la Juventus deve, non siamo al discorso della corona di Buffon del dopo Sassuolo, però c'è un momento di riflessione in cui debbono prendere atto che qualche misura va ripresa all'interno del campo. Ma guarda che Allegri è dall'inizio dell'anno che dice cose un po' strane da questo punto di vista. Prendete un po' di interviste anche post partita, penso a dopo Juve Sassuolo, le conferenze stampa, dove continua a dire: tutti dite che abbiamo già vinto, che abbiamo già fatto, che il campionato è in cassaforte, sulla Champions dobbiamo arrivare in fondo, magari questa cosa contribuirà a svegliarci. Questa roba l'ha detta spesso, e secondo me è un segnale piuttosto chiaro, da un lato della pressione che sente, e che è giusto che senta, perché io sono allegriano, però credo che quest'anno ragazzi, ci manca Allegri, che non si possa mettere sotto molto, pressione Allegri, certo, dopo un'estate così, dopo una campagna acquisti così. Sai, però quando si fa una scala lunga, gli ultimi scalini sono i più difficili da percorrere, e la scala della Juventus è bella alta, bella lunga, l'asticella si è sempre più alzata, e obiettivamente resta la favorita. Deve fare delle grosse riflessioni non solo sulla partita dell'altra sera, quanto sul fatto che ci sono squadre molto molto molto motivate come il Napoli, per esempio. Sì, ti faccio sentire un altro che è abbastanza sotto pressione. I think in the first half for about 25-30 minutes we didn't play well, and that is something that we can control, we can improve, we can work on it. Questo è Mourinho dopo la sconfitta di Watford, dove dice, sintetizzando: io non posso controllare la sfortuna, non posso controllare gli arbitri che nelle ultime due partite ci hanno detto male, quello che posso fare è provare a lavorare sul campo, però, e lo ripete due o tre volte, io la sfortuna e gli arbitri non li posso controllare. Mourinho, che ha perso 14 delle ultime 32 partite. Questo non è Mourinho, Giovanni, questo è un suo imitatore. No, è lui. In Spagna lo chiamano Lorigno, cioè uno che frigna. Faccio un po' fatica a riconoscerlo. Avete ragione, cioè non va valutato quello che sta succedendo in questi giorni, in queste settimane, sia a livello internazionale che a livello nazionale, ma è un 2016 che sicuramente a Mourinho, Lorigno, sta portando un pochino, come vuol dire, sfortuna. Io temo che sia in rottura prolungata, ragazzo. Sai che cosa me lo fa pensare? Voi provate a pensare e a ricordare come ha assemblato la grande Inter. Ha tolto il demiurgo, che era Ibrahimovic, e ha fatto una collezione di figurine, sempre per restare al tema, coprendo i ruoli attraverso i quali poteva costruire una grande squadra, un grande gruppo mirato al successo. Quest'anno invece ha preso le figurine che gli capitavano, ha aperto l'album della Panini, ha ripreso Ibrahimovic, ha preso Pogba, cioè ha preso i grandi nomi. Non è il Mourinho che abbiamo conosciuto noi, non dico il Mourinho del Porto che ha costruito una storia importante non sui grandissimi nomi, alcuni grandi nomi sì, non è il Mourinho dell'Inter che comunque ha potuto scegliere la qualità ma ha riempito le caselle giuste al posto giusto e con grande cinismo, rifacendosi a un motto famoso di Enzo Ferrari che diceva che la Formula 1 è una cosa che va... La macchina di Formula 1 va costruita per vincere e per rompersi un metro dopo il traguardo, e così fece lui con l'Inter, però fece una macchina da Formula 1 vincente. Quest'anno mi sembra che si sia affidato molto ai demiurghi e poco alle sue capacità di gestire una squadra. Io penso che prima, cioè io Ibra che non vince il campionato faccio fatica a figurarmi. Sì, bisogna aspettare un po' a seppellirlo. Detto questo, anche per Ibra gli anni magari stanno passando e forse non è più quello di un paio di stagioni fa, per il resto è verissimo quello che dice Marino, cioè è una squadra costruita veramente così, della serie, tanto al chilo, poi la qualità degli ingredienti è meravigliosa, dalla cintola in su, centrocampo e attacco sono incredibili. Però l'assemblaggio in mezzo alla difesa è dietro, è la crisetta di Rooney, se vogliamo sottilizzare, sì. La rosa dovrebbe essere molto più forte. La crisetta di Rooney che nasce anche dal fatto che non è facilissimo, cioè che comunque si viene fatto un tipo di tentativo, come anche in nazionale, per arretrarlo, che nasce proprio dalla necessità di dover assemblare tutto questo talento. La mia nonna Sofia diceva che in una bottiglia da un litro non ci sta un litro e mezzo d'acqua, e temo che ci abbia messo un litro e mezzo d'acqua. Le nonne sono questa. Sempre molto sagge. Io aggiungo che la sfiga di tutti questi, Mourinho, poi fra qualche minuto parliamo di Conte, che oggi addirittura Abramovic ha messo sotto processo, la sfiga di tutti questi è che c'è Guardiola che ha imbroccato subito il suo litro dentro la bottiglia con il Manchester City e rischia di togliere ossigeno a tutti gli altri. Il terzo voto lo diamo preventivo, pagella preventiva, perché pare che domani arrivi la pronuncia del sindaco Raggi sulle Olimpiadi. Domenica Malagò ha sparato le ultime cartucce. La seconda risposta, se la considero, diciamo, una mia sconfitta, è una sconfitta del mondo dello sport, questo è indubbio, perché vuol dire che la politica è intervenuta non solo disconoscendo quello che erano stati, diciamo, gli stessi via libera della politica, ma non rispettando tutte le decisioni all'unanimità del mondo dello sport. Marino. Allora, guarda, ognuno la pensa come vuole ed è legittimo. Dobbiamo chiudere entro le 3:30, se no le corrugere sono benissimo. Allora cerco di essere sintetico. Pier lo sa, perché ne abbiamo parlato, che cosa hanno rappresentato per me le Olimpiadi di Roma, quelle vere. Nel 1960 hanno cambiato la vita, probabilmente a me, sicuramente a molti italiani, ed è stato il momento in cui il mondo è tornato a innamorarsi dell'Italia grazie a quelle Olimpiadi perfette, in un'Italia che aveva un'innocenza diversa, una virginità diversa, prospettive diverse, forse anche un'etica diversa. Io capisco chi ha delle obiezioni nei confronti di queste Olimpiadi, perché comunque Roma forse non ha la capacità né etica né infrastrutturale né economica per essere attrezzata per le Olimpiadi, però la, come dire, tigna con cui in questo momento ci si oppone a queste Olimpiadi mi fa passare molto decisamente dalla parte romantica di chi dice: ragazzi, proviamoci a vedere se possono essere veramente un volano di qualcosa di strutturalmente importante, anche di eticamente importante, oltre che di sportivamente e socialmente importante. Diamo un'occhiata a quello che hanno fatto i nostri atleti paralimpici a Rio, già quello sarebbe un buon motivo per dire: facciamoli vincere in casa, facciamo sì che la loro gloria la possano avere anche fra le mura domestiche, facciamo sì che a Roma non accada più quello che è documentato sulla prima pagina di Repubblica di oggi, dove un rugbista disabile le paralimpiadi quotidiane, le Olimpiadi. Sì, esatto. sì. Allora non intestardiamoci, non sclerotizziamoci, certo. Ragioniamo su quello che può essere, cerchiamo di meritarci le Olimpiadi prima che ce le assegnino, nel senso che Roma deve diventare più bella, più pulita, più ospitale, più moralmente accettabile, possibilmente di qui a breve tempo, però non intestardiamoci su un no che diventa veramente un no leggermente preconcetto, inutilmente preconcetto. Detto questo, scusate, perché ci stanno arrivando tantissimi messaggi, cioè, ovviamente è legittima qualunque posizione, certo, anche quelle per il no. Certo, ma ci mancherebbe altro. Io voglio dire una cosa, un paese che arriva al punto di non organizzare degli eventi per paura che ci sia qualcuno che ruba è un paese morto. forse siamo un paese morto. Lo dico con rispetto, perché so che questo tipo di opinione è molto popolare, però arrivare a rinunciare a qualcosa perché tanto sarà un magna magna, come si dice a Roma, mi sembra una roba, vuol dire che siamo morti. Chiudiamo, chiudiamo la Claire perché è finito. Primo. Secondo, mancano 8 anni alle Olimpiadi. Dire no oggi per una questione legata alla situazione politica, tra l'altro piuttosto confusa, che c'è in questo momento, mi sembra qualcosa del quale magari fra qualche anno ce ne potremmo pentire. Terzo, Roma ha un sacco di casini e chiaramente i casini non sono dovuti alla nuova gestione che si è appena insediata, anche se sicuramente non è partita bene, ma insomma è chiaramente c'è un progresso e non c'è nessun dubbio, la Raggi non ha nessuna colpa di questo, tanto per essere chiari, perché è arrivata da pochissime settimane. Detto questo, le grandi manifestazioni possono essere, e lo dimostra ad esempio Torino nel 2006, lo dimostra Barcellona nel 1992, anche delle grandi opportunità per rilanciarsi. È proprio quando sei in crisi che se ti arrivano dei soldi, se ti arrivano dei fondi, e questi fondi e questi soldi li spendi bene, che puoi riuscire a creare un circolo virtuoso. Detto questo, io rispetto pure chi è contrario. Assolutamente, assolutamente. Mi piacerebbe anche sapere cosa ne pensa Nicola Roggero, che di Olimpiadi se ne intende. Nicola, ciao. Ciao, il mio è un conflitto di interesse, perché io penso che l'Olimpiade sia la cosa più bella che possa capitare a un individuo, specialmente se si occupa di sport. E quindi potete immaginare la mia posizione sulle possibilità di vedere le Olimpiadi in Italia. Fra l'altro io da torinese le Olimpiadi le ho viste direttamente nel 2006 ed è stato, sono stati 15 giorni meravigliosi. Quindi al di là, come dite voi, del rispetto, dell'opinione di chi è contrario. Nicola è torinese, Nicola è torinese. Torino esatto, oggi, lo dico da non torinese, è una città molto migliore di 15 anni fa. Sicuro. Credo non ci siano discussioni. E le Olimpiadi secondo me un po' c'entrano. No, c'entrano molto, c'entrano almeno per l'80%, così come Barcellona, così come Sydney nel 2000 e così come tanti altri casi che potremmo fare. E poi sposo in pieno quello che ha detto Pier, cioè se cominciamo a dire ma se qui ci sono degli interventi pubblici e sugli interventi pubblici si ruba, beh signori, però allora anche nella sanità o nei trasporti si ruba. E detto questo, non è che non facciamo più gli ospedali o non facciamo più le strade o non facciamo più le ferrovie. Bisogna cercare di mettersi in condizione di non rubare e di punire chi lo fa, ma non certo dire no, non si fa, perché a questo punto si condanna un paese a una paralisi. Sì, io capisco che questo sia un tema delicato e forse nemmeno affrontabile soltanto in una trasmissione sportiva, del resto non viene fatto così, c'è chi ricorda il passato dei mondiali di nuoto. Siamo 4 giornalisti sportivi e ci chiedono che pensiamo delle Olimpiadi, è come chiedere all'Ozio se il vino è buono, è ovvio. Ne pensiamo benissimo. Siamo chiaramente di parte. Però, Perché amiamo le Olimpiadi e amiamo lo sport. Però io credo che il dibattito dovrebbe essere un po' meno politico e un po' più legato anche ad altri ragionamenti. Saluto e ringrazio Marino Bartoletti. Grazie Marino. Ciao ragazzi, a presto. Ciao. Ci sentiamo settimana prossima. Abbiamo 2 minuti. Nicola, ci dici se Abramovic è lo Zamparini della Premier League? Io oggi ho dato un'occhiata a 14 allenatori in 13 anni. Il 14esimo è Conte, oggi legge i giornali inglesi. È sotto pressione, rischia se non vince con l'Arsenal. Beh, mi sembra che semmai sono i giornalisti inglesi che cominciano a imparare da noi italiani. Se basta una sconfitta per mettere in discussione Conte, allora è perfettamente inutile persino discutere. Conte è appena arrivato, è un allenatore che sicuramente gode di prestigio per quello che ha fatto alla Juventus e direi soprattutto con la nazionale italiana, che è stato un autentico capolavoro. È arrivato al Chelsea, che è una squadra da ricostruire, perché riparte comunque da un 10° posto in campionato, quindi da una situazione non ottimale. Direi che i risultati, almeno nelle prime partite, si sono viste. C'è questo passo falso con il Liverpool, però mettere in discussione Conte perché perde contro una delle squadre più in forma in questo momento alla Premier, questo vuol dire che i giornalisti inglesi hanno una bella fantasia. Certo. Ma secondo te merita un voto sufficiente l'approccio di Conte in Premier? Sì, no, non sufficiente. Perché anche lui è comunque sembrato un po' nervoso e dall'inizio, quando ha cominciato a far capire che il mercato non era quello che pensava, che sognava, però, che immaginava. Lui in questo momento non ha la squadra migliore in Inghilterra, credo, no? No, sicuramente, anche quindi. Per questo. Tra l'altro dire che Conte è nervoso è come dire che Gandhi era uno non violento. Conte ha sempre abituato tutti al suo comportamento estremamente agonistico, diciamo così, sulla linea laterale ed estremamente schietto ai microfoni. Quindi non si abitueranno anche gli inglesi, Nick. Si abitueranno sì, anche gli inglesi. Ma poi le parole di Hazard, che si è detto entusiasta del fatto di parlare con Conte. Credo che sia un progetto che vada anche ben oltre quest'anno, sia un progetto di almeno 2 o 3 anni quello con Conte, per cui non penso proprio che sia una sconfitta con il Liverpool potrà mettere in discussione Conte, ci mancherebbe altro. A questo punto allora Mourinho, cioè lo United di Mourinho cosa dovrebbe dire? Sarebbe del peggio. Ma insomma avremo da divertirci. Grazie Nick. Grazie a voi, saluto Pier. Ciao, Nicola Roggero, ci fermiamo qui. Torniamo domani dopo il GR l'Europa delle 14. Ciao.